Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E si torna in studio dopo la linea al GR di Radio Popolare per la giornata odierna, mercoledì 12 giugno, puntuali. Iniziamo con un last minute che anticipa anche la rubrica in mostra e un'apertura di un'esposizione a squadro stamperia per la giornata di oggi. Dalle 19.30 si inaugura nel Mirino della Memoria, ritratti dei giornalisti uccisi in Palestina. È una mostra che vede protagonista Gianluca Costantini, che ha iniziato a ritrarre i giornalisti uccisi nella striscia di Gaza, collaborando attivamente con il Commitment Project. Journalist ha costruito giorno per giorno un memoriale visivo, un'offerta votiva per chi non c'è più e chi aveva scelto proprio come compito questa terra, proprio quello di fare memoria. Sono almeno 107, sono al 28 maggio 2024 i giornalisti in senso uccisi nel conflitto scoppiato ad ottobre 2023. Dei 107 giornalisti uccisi, 102 erano palestinesi, 2 israeliani e 3 libanesi. E quindi per l'esposizione in via Nazario Sauro 27 a Bologna, squadro stamperia nel Mirino della Memoria, ritratto dei giornalisti uccisi in Palestina, Morena Moretti ha intervistato appunto Gianluca Costantini. Sentiamo nel last minute di oggi questa anticipazione. Gianluca Costantini, c'è una mostra che sta per essere inaugurata e sarà dal 12 al 22 di giugno qui a Bologna, nella Galleria d'Arte Squadro Stamperie di via Nazario Sauro 27, che è nel Mirino della Memoria, ritratti di giornalisti uccisi in Palestina. Sono ritratti che tu hai fatto fin dall'inizio della guerra in Palestina, che è ancora purtroppo in corso con la gravità assoluta che tutti i giorni ci viene mostrata, insomma. Hai avuto questo bisogno di testimoniare queste uccisioni che sono anche molto incredibili quasi, no? Sì, io ho iniziato da molto prima, nel senso ho un interesse sulla protezione dei giornalisti nei conflitti anche in altre guerre, ho fatto anche i giornalisti uccisi in Ucraina, però mai era successo che così tanti giornalisti venissero uccisi in così breve tempo in un conflitto. Sì, una tale strage di giornalisti. Esatto. E oltretutto bisogna anche ricordare che noi abbiamo solo la visione di questi giornalisti che vivono nel territorio palestinese, perché i giornalisti degli altri paesi non possono entrare dentro. Quindi i nostri unici occhi per vedere quello che succede sono i giornalisti locali, direi, della striscia di Gaza. E dal 7 ottobre ho iniziato, in collaborazione con il Comitato di Protezione dei Giornalisti di New York, che mi davano le informazioni per essere più precisi e affidabili possibili. Quando mi dicevano questo giornalista è stato ucciso, mi davano anche tutti i dati di chi erano le fonti che dicevano che era stato ucciso. Piano piano non pensavamo che si sarebbe creato un così incredibile galleria di ritratti, perché abbiamo superato i 107 in questi giorni completamente verificati. Poi ce ne sono tantissimi altri che ancora non conosciamo le loro sorti, perché molte di queste persone non ci sono neanche le foto, perché sono state distrutte completamente la loro abitazione, tutta la loro famiglia, tutti i loro parenti sono stati uccisi, tutto è andato a fuoco, diciamo. Quindi spesso, essendo così giornali locali, no? Come se fossero i giornalisti locali di Bologna, no? Non quelli di nazionali che vediamo in TV o nei grandi quotidiani, quelli proprio anche dei paesini attorno a Bologna, non sono così famosi, no? Non sono persone che conosciamo i loro visi. E quindi questa è un po' una dedica, proprio una memoria per loro, per non dimenticarli. Si è un po' rotto, diciamo, un argine, perché di fronte alla non protezione della press, no? Scritto sulla maglia veniva, ed era un modo per i giornalisti di guerra per poter comunicare, registrare quello che accadeva. Oggi si rompe anche questo limite, perché vengono assolutamente uccisi senza nessun problema. Questa è una cosa estremamente grave, quindi nella mostra sicuramente verrà, solo guardando i disegni si rileverà questo. Sì, credo che solo solo il vedere tutti questi visi, uomini e donne, perché sono giornalisti uomini e giornaliste donne, solo il vedere tutti insieme fa un certo effetto, diciamo, emotivo, perché uno non se ne rende conto quando li vede una notizia, anche se è una notizia ogni qualche giorno, è un giornalista ucciso, quando li vedi tutti insieme, che poi sono anche tutti molto giovani, ti stimola, proprio ti fa capire che sta succedendo qualcosa di particolare sui giornalisti nella striscia di Gaza, cioè è proprio un progetto, cioè qualcosa di mirato, non è che vengono uccisi per effetto collaterale perché si trovavano in quel luogo, no? Perché bombardano un posto e casualmente muore un giornalista perché è lì, vengono proprio, cioè ormai è palese, mirati. Sì, viene proprio l'idea che la parola press poi diventi target di fatto. Come... Sì, quando hai il giubbottino press è pericoloso. Per le nostre regole internazionali dovrebbe essere quello che ti protegge. Esatto. Quindi ci vedremo all'inaugurazione che sarà alle 19 il 12 giugno. Sì, esatto. Grazie Gianni Costantini. Portare un'attenzione sottolineare, oltre che chi ha portato il proprio lavoro in prima linea, anche sottolineare il discorso dell'uccisione ai danni di chi porta informazione, di come il cartellino press diventi, come ha detto giustamente Morena, improvvisamente target, cioè bersaglio. E non è casuale, eh? Lo troviamo in un conflitto tragico, vittime in aumento, numero di giornalisti anche, tra l'altro, veramente inquietante. Dalla fine di maggio 107, guarda un po', chi porta informazione, chi dà diffusione di notizie, viene colpito. E non è un errore tragico, a quanto pare. Questa sera quindi la possibilità di portare uno sguardo a chi è stato colpito ed è stato nel mirino della memoria in maniera letale, ritratti dei giornalisti uccisi in Palestina. Via Nazario Sauro 27, squadro Stamperia, da questa sera 19 o 19:30, adesso per la precisione. Intanto vi ricordo che a squadro Stamperia questo materiale visivo per chi non c'è più. Coinè, il brano che ho selezionato, lei è Rita Marco Tulli. Dobbiamo colpire l'informazione in diverse realtà, eh? nell'aspetto dei conflitti, nell'informazione libera per quanto riguarda percorsi, oltre che bellici, anche di attualità. Quindi un motivo importante e un ottimo lavoro di attenzione da Gianluca Costantini. Oggi il Last Minute ha avuto come protagonista l'autore della mostra Nel mirino della memoria, con l'intervista che ha portato Morena Moretti ai microfoni del Last Minute di Radio Città Fujiko. Io vi ricordo anche, per quanto riguarda l'apertura dei mercoledì al Comini Express in via Fioravanti 68, la versione estiva di binario 69, ormai mi confondo come i numeri dei binari di Harry Potter, no? Beh, ci sarà questo open desk, quindi se volete portare, anzi portate i vostri dischi, i vostri vinili, faremo una playlist condivisa assieme per la serata di oggi dalle 18:30 circa. Avremo modo di mettere i dischi assieme. Lorenzo Pauri già in redazione per Rivoltiamo Pagina imminente, quindi ricordo il 333-180-9494 nella parte dove avrò la possibilità di presentare la ragazza occitana. Lo farò in diretta telefonica con Nando Mainardi, vita movimentata di Dominique Boschero, edizione Manni. Ci sentiamo tra poco allora con la rubrica letteraria dei 103.1, libri a colazione con il Voltiamo Pagina. A tra poco!